Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartone animati. You say you love me, but I don't have any proof. And if you left me, it would break my heart in two. Split like a wishbone part for me, but most for you. And what would you wish for? There's so many to lose, and I need all that I have. Prepare for my heart attack. Just like my grandpa and his father before that. Did they like to drink like me and live this life so fast? And now my memories and his money's all that's left. And I guess my middle name and the child that I could have. So why do I feel so bad? And why do I Eclettica è la seconda parte del secondo volume della settimana, quello del primo aprile. La voce che sentite è quella di Giulio Caperdoni, con voi tutti i giorni, fra le 19 e le 20, ancora per qualche settimana, non di più. Ormai è una certezza questa. Giulio è radiorockfm.com, indirizzo di mail, valido sicuramente ancora per un po'. myspace.com/eclettica invece è l'altro indirizzo che rimarrà sicuramente valido più a lungo. Eclettica che è disponibile anche in podcasting, ed Eclettica che è dotata di playlist pubblicata settimanalmente e inviata direttamente nella casella di posta di coloro che sono iscritti alla lista nera. Per esserlo basta scrivere a giulio@radiorockfm.com. Seconda parte di questo secondo volume che si è aperta con 4th of July, la loro Heart Attack, che prosegue con una grande canzone, una canzone di un duo di San Francisco il cui nome è Girls. Loro si sono formati da poco, ancora non ci sono dischi ufficiali, e al di là delle quotidiane presenze digitali che ormai ciascun gruppo ha sui vari blog in giro per la rete, c'è solo un EP in vinile uscito per la True Panther Sounds, una voce che assomiglia molto a quella di Elvis Costello per questa Hellhole Rat Race. I Girls. I'm always dreaming and it's never for real. I'm all alone.

When you're back in England with the fleet again, you'll hear their hue and cry against me. From now on, they'll spell mutiny with my name. Verso mezzogiorno, la segretaria di redazione telefonò in cronaca per dirmi che il direttore voleva parlarmi. «Venga tra 15 minuti», aggiunse. «Perché non ora? Sono libero», dissi. «Fra 15 minuti», fu la sua risposta, e riattaccò. Mi restava dunque poco tempo per fare un bel esame di coscienza, ripassarmi bene a memoria gli ultimi pezzi, ricordarmi i servizi, gli articoli e tutto quanto avevo scritto in quegli ultimi giorni. Mi sembrò evidente che da qualche parte avevo scazzato. Questo era l'incipit di Rimini, di Pier Vittorio Tondelli. We're all right where we're supposed to be. We're all right where we're supposed to be. We're all right where we're supposed to be. Abbiamo variato veramente di poco sul nome del gruppo. Dopo esserci ascoltati i Girls, duo di San Francisco di cui ho abbondantemente parlato, siamo passati in Belgio, alle Girls, però in Hawaii. This Farm Will End Up in Fire, questo è il titolo del pezzo. E poi sono stati We Are Scientists, che hanno chiuso appena qualche secondo fa con After Hours, per proseguire con una nuova band che proviene da Baltimore. Ma prima di questa band vi voglio leggere qualcosa che arriva da Carpi. Il nome dell'ascoltatore in questione scelto è Massimo. Cavolo, ma che cosa sta succedendo intorno a me? Da tempo ho una strana sensazione che non so tanto descrivere. Sembra che tutto e tutti siano delle meteore. Come ti dicevo nella mia precedente email, nel luglio del 2007 ha chiuso la mia radio del cuore, Radio Antenna 1 Rock Station. Dopo 24 anni di ascolto quotidiano era come una parte di me, che d'improvviso mi è venuta a mancare. Nel 2006 purtroppo è venuto a mancare mio padre, il mio ultimo genitore ancora in vita. I prezzi delle merci e degli alimenti che ogni giorno cambiano continuamente, senza che nessuno sia in grado o voglia far niente, destra e sinistra, e ti senti sempre più disarmato di fronte a questi tempi. I tuoi negozi di fiducia che hanno chiuso i battenti, perché non erano più in grado di mantenersi. E adesso? Adesso tu mi dici che non trasmetterai più in questa radio? Ma almeno continuerai su altre frequenze? E spero che il tuo MySpace rimanga sempre. Mi stavo affezionando al tuo spazio delle 19:20. Ti seguirò. Vi dicevo, una band da Baltimora. Loro si chiamano Future Islands ed escono nel 2008, anzi sono già usciti, per una etichetta il cui nome è Upset the Rhythm, con un album intitolato Wave Like Home, dal quale estraggo Beach Home.